Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia l'ideologico quotidiano. Una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Ringraziamo tutti voi per la cortese attenzione, ringraziamo Cristiano Valli per la regia. L'appuntamento rimane confermato domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata.